No, ma cos'è? Che buono. Ma che buono, sta bravo, lascia stare, mi fai schifo. Allora, cos'è? Ah, il Wunderwaffer, scusa. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Voglio un tiro. Ma cambiamo un po', insomma, voglio un tiro, no? Chiedo, voglio un tiro. Cosa vuol dire voglio un tiro? Non so, sono tante occasioni in cui puoi dire voglio un tiro, non so, immaginati... No, aspetta. Per esempio, un portiere di calcio, di calcio che, siccome si annoia, sta sempre lì. Sai che portiere in Italia? Cioè, che ha la difesa forte, che sta lì, sì, che esatto, non fa niente. Cioè, niente. Gioca sempre dall'altra parte. Sì. Tanto dice: Oh, io sono qua. Io voglio un tiro. Bentornati a Voglio un Tiro, un saluto da K. Un saluto da Drago, ecco, allora qui a Voglio un Tiro, alias Chiedo Asilo, sì, noi ci vantiamo di essere un po' gli Alberto Manzi, o Alberti Manzi, o Alberti Manzo del 2012. Cosa dici adesso? Cos'è? Chi è Alberto Manzi? Alberto Manzi, il conduttore di Non è mai troppo tardi, il programma TV che ha insegnato a leggere e scrivere a milioni di italiani analfabeti, o italiani analfabeta. Sì, come donne incinta. Quindi è analfabeti? Certo, Drago, scusa, è come donne incinte. Adesso cosa vai a tirar fuori? Vabbè, il maestro Manzi, scusa, io e te non eravamo neanche nati, almeno io no. Ma è per dire, K, che da queste frequenze anche noi cerchiamo di educare gli adulti rimasti bambini e i bambini, ahimè, trattati come adulti. Educare. Ad esempio, abbiamo più volte bacchettato alcuni adulti che copiavano, ti ricordi? Copiare non si fa, quindi bambino Luttazzi, bambino Augias, siete dei copioni e non si fa. Bambino Crozza, idem. Vabbè, Drago, non è che se tu dici che non si fa, di colpo tutti smettono di copiare. Vabbè, adesso invece ci tocca bacchettare anche il bambino Zuckerberg, quello di Facebook, perché pare che abbia copiato 10 brevetti di Yahoo su come far funzionare il suo social network. Yahoo l'ha denunciato e tra poco comincia il processo in California per Zuckerberg. Ecco, con tutti i soldi che ha, Zuckerberg, cercheranno tutti delle scuse per fargli causa a Zuckerberg. Strano che Santoro non ci abbia ancora provato. Beh, comunque Zuckerberg si difende alla grande, si è sempre difeso alla grande. Ci credo, avrà fior di avvocati. Ma lui fa tutto da solo. E che cosa ha fatto? Ha postato sul suo profilo il video di I Will Survive. I'm on it now. Tutto lì. Siamo solo agli inizi. Oh no, I will survive. Mi sono perso tutti gli accordi. Non importa, vai avanti così. Sei un grande drago, sai. Col cazzotto sul cuore, sai. I know I will survive. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. Oh, meno male, è arrivato il momento. Mi sento particolarmente orgoglioso in questo caso di presentare al pubblico italiano il quarto fantastico il quarto episodio di I Fiddly Burger. Yeah. La sitcom. Cosa Drago? Non è Allora Grozzi, vrozzi. Oh, sono così orgoglioso di presentare al pubblico italiano il quarto episodio di I Fiddly Burger. Hai sbagliato i Fiddly Burger. Come si dovrebbe dire? De Fiddly Burger. Come de apostrofo, come dei Fiddly come Burger. Pia De Tolomei. Die Fiddly Burger sarebbe, no? Di Fiddly Burger. Capito? Suonerebbe così: il quarto episodio di Fiddly Burger. Funziona? Fa già ridere. Guarda qua. Adesso. Io vuoi dervi Non hai riso su questa, hanno riso tutti, sentito il pubblico. Ma cosa c'entra? Cioè, ma l'ultima battuta è quella che spiega tutto e tu non la capisci mai. No, ma che c'entra? Che significa? Che c'entra? C'entra sì, eh. Cioè, spacciamo questa sitcom come chissà che, poi non si capisce niente, non capisci nemmeno tu che sei mezzo svizzero. Ma sì, ma che c'entra? Che significa? Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccio, mi pare di capire. È una questione di... Sì, sì, insomma, non è più... Sì. Con... sì. Cos'è questo? Cosa c'è? Hai lo spleen? Hai la faccia da Baudelaire? Perché martedì, matematicamente, sì, è il giorno della settimana più distante dal venerdì. Credo, non so. Comunque sono triste. Da... Cosa sbuffi tu? Sono dati importanti. Ho capito, dati importanti. Io traduco dati, meri dati, freddi dati matematici in sensazioni, in emozioni. Lascia stare le emozioni, capa, che è proprio quello che ci ha fregato a noi italiani. Le emozioni, a forza di emozionarci, abbiamo poi dovuto prendere un automa, metterlo alla presidenza del automa, consiglio. Dai. Almeno lui non si emoziona, fa le riforme. Ma non è un automa, è Sario. It's me, Mario. Giocare, manovra, su, su, giù, giù, giù, forza, creare, tassa, probabile, ridurre, tassa, è certo che non succederà, passi in avanti, avanti, genuflessione, deve penetrare di più. Super Mario non è un automa, è Sario, però non si emoziona. Lui non si emoziona lui, mai. Lui non capirà mai la tristezza del martedì. Non è che basta, cioè, nemmeno io se per quello. Neanche all'entusiasmo del venerdì. Se vogliamo essere precisi. Io non ho mai capito sta tu cosa. Tu pensa all'orbita della Terra intorno al Sole, perché? No? Ci sono punti in cui la Terra si allontana dal Sole e punti in cui la Terra si riavvicina. Così, guarda il mio dito, sì, vedi? Vedi questo giro che fa il dito? Il microfono sarebbe... Tu immagina il martedì come il punto in cui la Terra si trova il più lontano dal Sole. Ho capito. Hai capito? Il punto più buio e più freddo. Rendo l'idea. Sì, sì, non so bene dove stiamo andando a parare, però rendi bene l'idea. Visto martedì... che in ognuno di noi, Drago, esiste tutto l'universo. Sai che si dice, no? Tengo l'universo nel palmo della mano. Mai sentito, però capisco. Come mai sentito? Un po' buddista, tu pensa al martedì come una galassia lontanissima, in una zona fredda ed entropica dell'universo. Questo è il lupo dell'universo, rendo l'idea. Credo che siamo un po' fuori tema, di cosa stiamo parlando? Della tristezza del martedì, lo spleen, un argomento ingiustamente ignorato dalla psichiatria, eppure esiste. Vabbè, esiste. Devo aver letto qualcosa sulla depressione della domenica, no? Vedi, hai anche scritto un romanzo, forse. La depressione della domenica, quella del lunedì. Ma non mi sembra di aver mai trovato niente sul martedì. Guarda che gli scienziati il martedì proprio l'hanno ignorato. Vedi? Vedi cosa? È un problema sottovalutato. Evidentemente martedì... è un problema che non esiste. Cioè, tutti a scrivere le canzoni sul lunedì. Odio il lunedì, che brutto sto lunedì, ricominciamo lunedì. Parliamo del martedì, martedì che è tutto un'altra. Non esiste proprio. Ma come fa a non esistere? Tutto ruota intorno al venerdì, no? Su questo siamo d'accordo o no? Vabbè, dai, ok. Passami finta, questa. Sì, allora, il martedì è il giorno della settimana più lontano sia dal venerdì precedente sia dal venerdì seguente. Ah, quindi proprio quindi non... un qualche effetto sulla psiche umana, questa cosa deve pure averla. Beh, sulla tua di sicuro, sulla mia anche se continui così. Ma basta, cosa sono sti lupi? Dove siamo? Nell'universo del martedì. Capito? Siamo a martedì. Cos'è? Ma martedì cosa vuol dire? Siamo martedì, a martedì è un luogo, Drago. È un luogo dell'anima. Il più cupo, triste e freddo luogo dell'anima. Chiedo aiuto! adesso siamo ai saluti. Insomma, un po' minaccioso. K, cosa ti sta succedendo? Non sono K. Come non sei K? Sono il lupo. Il lupo? Sono il lupo del martedì. Ma che cos'è il lupo del martedì? C'è il lupo degli Abruzzi. Il lupo della Scandinavia. Sì. Il lupo della steppa. Bravo. Ma c'è anche il lupo del martedì.